gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla. E con questa serata concludiamo la settimana. Io quindi poi non potrò che augurarvi un buonissimo weekend. Cosa abbiamo fatto questa settimana? Come sapete, questa settimana abbiamo visto, o spero che lo sappiate, abbiamo cercato di sentire la musica più bella di sempre e di ascoltare alcune tra le poesie più belle di sempre. Per questo abbiamo preso spunto dalle classifiche dei Rolling Stones e di Giovanni Rickler, questo traduttore polivalente perché parla tantissime lingue, poeta, che ha deciso di pubblicare questa raccolta, secondo, molto personale, delle poesie più belle di tutti i tempi, dove troviamo un po' un resoconto della storia, da Saffo, Catullo, Dante, Pascoli, giochi novelli, Baudelaire e poi Federico Garcia Lorca e tutti, Leopardi, D'Annunzio e così via. Scusatemi. Ora però è arrivato il momento di svelarvi qual è la canzone più bella di tutti i tempi, che è un po' il momento hype di questa settimana. La classifica l'ha fatta i Rolling Stones, come vi dicevo. Non che voglio dire che i Rolling Stones non sono una rivista che ne sa di musica, assolutamente, e secondo me probabilmente sono una rivista che deve assolutamente, che ha più autorità a fare questa classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. Però mi fa un po' strano, mi fa un po' strano, posso dirvelo a voi. Ci sono due canzoni su tre sul podio che si intitolano Rolling Stones, che hanno tra il nome dell'autore e il titolo Rolling Stones, e qua vi ho già dato un grande indizio su qual è la canzone al numero uno. Ma prima di tutto ricordiamo la classifica. Al numero 3 abbiamo visto che c'era John Lennon con Imagine, una canzone che è al numero uno di tutti i nostri cuori. Al numero 2 abbiamo visto che c'erano proprio i Rolling Stones con I Can't Get No Satisfaction. E al numero 1 abbiamo sempre i Rolling Stones, ma nel titolo, perché la canzone si intitola Like a Rolling Stones e il cantautore è Bob Dylan. Ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get Così arriviamo alla fine di delle poesie più belle di tutti i tempi di Giovanni Rickler, e ne ho selezionate due che secondo me sono le più belle di questo libro, dopo avervi letto Alla sera di Ugo Foscolo e L'infinito di Leonardo di Leopardi. Ho anche letto tutte le poesie di Federico García Lorca. Ora arriviamo alle ultime due. E la prima è molto breve ma molto intensa. Se potrò impedire, di Emily Dickinson. Se potrò impedire a un cuore di andare in pezzi, non avrò vissuto invano. Se saprò alleviare le sofferenze di una vita, o guarire una pena, o aiutare un pettirosso caduto a tornare nel nido, non avrò vissuto invano. E l'ultimo. Se Rudyard Kipling. Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti addossano la colpa. Se riesci ad aver fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma anche a tener conto del loro dubitare. Se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non reagire con altre calunnie, o essendo odiato a non cedere all'odio, pur senza mostrarti troppo buono né troppo saggio. Se riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni. Se riesci a pensare senza fare dei tuoi pensieri il tuo unico scopo. Se riesci ad andare incontro al successo e alla sconfitta, trattando questi due impostori allo stesso modo. Se riesci a sopportare di sentire la verità distorta da farabutti che non fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte e umilmente ricostruirle con le poche energie che ti restano. Se riesci a fare un sol mucchio delle tue vittorie e rischiarle in un colpo solo a testa o croce e perdere e ricominciare tutto da capo senza mai lamentarti di quello che hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi e i tuoi tendini a sostenerti anche quando ormai non te li senti più e a resistere anche quando ormai non c'è più niente in te eccetto la tua volontà che ripete loro resistete. Se riesci a parlare con la tua marmaglia senza perdere la tua virtù, o a passeggiare con i re senza perdere il tuo senso comune, se negli amici e nei nemici possono ferirti, se tutti gli uomini contano per te ma nessuno troppo, se riesci a fare che un semplice minuto valga davvero 60 secondi, tua è la terra e tuo ciò che è in essa. E quel che più conta, sarai un uomo. Sarai un uomo, figlio mio. Buonanotte a tutti, qui ragazzi e queste sono le buonanotte di allineamenti su Ciao Radio Com. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.